La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:31, primi e 30 secondi. Siamo in diretta dagli studi di Milano e grazie per gli ascolti in diretta in podcast. Come sempre vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per segnalarci temi, trasmissioni, fare domande, quesiti, eccetera, eccetera. Il tema di oggi, ve lo dico subito per farvi fare qualche minuto di riflessione, se intervenire o meno, all'800240024. Le vostre opinioni, come sempre, ce le mandate per sms 349-238-6666. Abbiamo oggi un ospite della cui presenza io sono molto felice. Il tema è questo. In Italia facciamo abbastanza per tutelare quelle che io chiamo le sentinelle civili, cioè coloro che nello svolgimento quotidiano della loro professione, del loro mestiere all'interno delle aziende, sia pubbliche, sia di tutta la pubblica amministrazione, sia di quelle private, si imbattono per quello che fanno ogni giorno nel loro lavoro in evidenti segni che testimoniano la violazione di regole. Possono essere regole del codice civile, possono essere regole del codice penale, possono essere nella pubblica amministrazione principi e norme del diritto amministrativo, e a quel punto ritengono un proprio dovere quello di segnalare gli illeciti di qualunque tipo, ordine o gravità. O anche se ai loro occhi, non avendo la competenza, non si configurano come manifesti illeciti, comunque dei segni di violazioni di regole. Facciamo abbastanza per tutelarli? In inglese, forse ne avrete sentito parlare, ne abbiamo parlato più volte anche nelle trasmissioni mie, il pomeriggio, quella del mattino a Tentino 2 con Alessandro Milan, i conti della belva il sabato. Questa prassi che identifica l'atteggiamento di chi non sta zitto e segnala si chiama il whistleblowing, cioè chi aziona il fischietto, dà il segnale, ovviamente lo dà a chi è competente all'interno della propria società o della pubblica amministrazione, cioè segnala le violazioni evidenti. La risposta che noi abbiamo a questa domanda retorica è no, nel nostro paese non abbiamo nel nostro ordinamento sufficienti tutele per chi fa il proprio dovere di fedeltà al mission della pubblica amministrazione o dell'azienda privata, e anche innanzitutto fa il proprio dovere di cittadino che, se vede una violazione, dal basso costruisce legalità. E perché questo ospite è straordinario? Perché abbiamo con noi esattamente chi porta, per così dire, le conseguenze di un atteggiamento di questo tipo che ha deciso di praticare nel proprio ambito professionale e di cui ha pagato e paga le conseguenze. E con noi, infatti, qui in studio, io molto lo ringrazio per la disponibilità del tempo che ci dà per parlare della sua storia e di questo problema in generale, Andrea Franzoso. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio, grazie. Andrea Franzoso, ne abbiamo già parlato più volte, forse ne avrete sentito parlare anche a una puntata di Report di Milena Gabanelli sulla RAI, che è andata in onda il 5 giugno scorso. Svolgeva professionalmente, era un funzionario dell'Internal Audit, quindi una struttura addetta al controllo di una società quotata che si chiama Ferrovie Nord e che è partecipata maggioritariamente, ne esercita il controllo, della Regione Lombardia e poi per il resto da come azionista di blocco, diciamo, c'è anche Trenitalia, e poi naturalmente, essendo quotata, ci sono anche gli azionisti retail. E ora vi ricordiamo che cosa ha fatto Andrea Franzoso e perché paga. Allora, come nasce la storia di cui sei protagonista, Andrea? La vicenda è avvenuta nel 2014-2015, quando, nello svolgimento delle nostre funzioni, i miei colleghi ed io abbiamo trovato tutta una serie di spese anomale imputabile all'allora presidente della società, Norberto Achille. Abbiamo quindi redatto un report di audit segnalando tutte queste spese non giustificabili, non connesse all'attività aziendale, quindi abbigliamento, mobili, accessori, profumi, carta di credito utilizzata per giocare a poker online, addirittura per acquistare film on demand e così via. Auto aziendale usata dal figlio. L'auto aziendale utilizzata dal figlio, figlio che tra l'altro ha accumulato in 4 anni oltre 180.000 euro di multe. Che pagava regolarmente la società. Ovviamente le pagava la società, ovviamente la società non dichiarava chi fosse il guidatore, quindi questo comportava un ulteriore aggravio di spese per noi e quindi per le casse della nostra azienda. Io nello svolgimento del mio incarico ho fatto ciò per cui ero pagato, nulla di straordinario, semplicemente ho segnalato queste criticità, le ho segnalate anzitutto internamente all'azienda, dove la cosa non è stata accolta favorevolmente. L'allora presidente del collegio sindacale chiese a me e ai miei colleghi di riscrivere il report in maniera più soft, evitando di allegare appunto una serie di allegati in cui riportavamo le diverse voci di spesa anomale. E di fronte a questa situazione io ho ritenuto di fare ciò che il mio dovere di cittadino, oltre che di dipendente di questa azienda, mi imponeva. E sono andato dai carabinieri e ho denunciato il fatto. Da lì è partita un'indagine che, come si sa, ha portato... Il presidente si chiamava e si chiama l'ex presidente Norberto Achille. È stato indagato per peculato e truffa, e indagato anche l'ex presidente del collegio sindacale che ricordavi prima, Carlo Alberto Belloni, per tentato favoreggiamento. Sì, poi la sua posizione, la posizione di quest'ultimo è stata archiviata. È stata archiviata. Mentre l'ex presidente ha il procedimento che sta andando avanti. Sì, è stato rinviato a giudizio. Esatto. Anche se la cosa strana è che oggi, a un anno e mezzo di distanza dall'indagine, il processo non è ancora iniziato. Qui siamo sui tempi della giustizia. Ma nel frattempo è cambiato il presidente, al posto dell'ex presidente Norberto Achille, Regione Lombardia, no? Ha designato il presidente Gibelli. E nel frattempo, a te, dopo che non avevi aderito all'invito a scrivere il report in una maniera, diciamo così, più soft, che cosa succede? Io vengo isolato, vengo esautorato da tutti i miei incarichi che sono affidati a dei consulenti esterni. E quindi io trascorro le giornate nella più completa inattività. Ma rimanendo al servizio? Rimanendo lì, quindi formalmente io mantenevo i miei incarichi, ed è quello che tra l'altro mi rispondevano anche i miei superiori, perché quando io chiedevo loro non ho lavoro, segnalavo di non aver lavoro, mi veniva risposto formalmente tu ancora stai occupandoti di questo, anche se la società sta pensando a ricollocarti in una diversa posizione aziendale, nell'ambito questo di una più generale riorganizzazione aziendale attuata dai nuovi vertici. La cosa strana è che nell'attesa di questa riorganizzazione aziendale l'unico dipendente che si trovava senza lavoro ero io, e trascorrevo la giornata appunto leggendo romanzi o navigando in internet. Aspetta, sentiamo, perché i colleghi di Report sono andati a chiedere mesi fa al presidente Gibelli, ma insomma che cosa stava succedendo ad Andrea Franzoso, e questa è la risposta che Gibelli ha dato ai microfoni di Report. Noi non ho spostato solo Andrea Franzoso, ho riorganizzato completamente la macchina. Ma perché viene spostato Franzoso? Viene semplicemente spostato in ragione di un'esigenza organizzativa, ma le ripeto, non è l'unica persona che è stata spostata, e tutti indistintamente si sono messi a disposizione dell'azienda. Però la domanda è, cioè c'è una persona, Andrea Franzoso, che con il suo intervento di fatto fa uscire fuori una brutta storia di spese anomale e di soldi pubblici sperperati. Certo. Perché non può continuare a fare questo lavoro, ma invece è stato trasferito da lei? Non è stato trasferito, abbiamo riorganizzato completamente la società in ragione di dare il miglior assetto possibile. Come si vede, Gibelli dice che c'è la riorganizzazione complessiva, non riguardava mica solo lei. Certamente, anche altre persone sono state trasferite, per esempio il mio collega Luigi Nocerino, che era colui che all'interno del servizio internal audit aveva redatto il report famoso, anche lui è stato trasferito. Ma poi altri, cioè questa organizzazione complessiva che Gibelli di cui parla, in realtà ha colpito solo voi? In realtà sì, altre persone hanno state trasferite, ma sempre all'interno dei loro servizi. Ci sono state delle modifiche organizzative, però soltanto io e il mio collega siamo stati trasferiti in servizi diversi da quelli dove prestavamo servizio in precedenza. Uno a questo punto direbbe, beh, ma di fronte al caso che diventa pubblico, no, l'indagine lo fa diventare pubblico, l'indagine formale della procura, i sindacati la contattano e dicono siamo a tua disposizione. No, non ho avuto contatti con i sindacati, nessuno mi ha chiesto se avevo bisogno nessuno di sostegno. Mai. No. No, la risposta è chiara. Certo, è una risposta un po' amara, cari ascoltatori, perché voglio dire, almeno un qualche rappresentante sindacale, ripeto, sono persona di mondo, magari di un colore o di un'area politica a cui sta sulle palle l'attuale indirizzo politico della regione prevalente, visto che siamo in Italia, piuttosto che guardare il merito. Invece no, nessuno. E lei non è rimasto neanche un po' sorpreso di questo? Ormai forse sono disincantato. Anche perché in questi mesi ciò che mi ha ferito maggiormente è stato anche l'isolamento da parte di molti colleghi, non tutti ma molti, e anche vivendo situazioni bizzarre del tipo che ricevo attestazioni di stima in ascensore, poi quando le porte si aprivano tornavo ad essere sconosciuti, qualcuno mi dava appuntamenti fuori, lontano dall'azienda, ci siamo... abbiamo preso un caffè in qualche bar lontano da sguardi indiscreti, come se avvicinarsi a me fosse rischioso perché qualcuno poteva essere associato a me, e questo mi ha un po' ferito. Io leggo ai nostri ascoltatori alcuni passaggi di un colloquio che avviene tra Andrea Franzoso, che è qui con noi, e l'allora presidente del collegio sindacale Carlo Alberto Belloni, poi costretto alle dimissioni, indagato, poi archiviato. E in questo incontro con Franzoso, Belloni è amareggiato per questa faccenda e dice testualmente, virgolette, io pensavo da voi o da te o dall'altro che lavora con te di tirare fuori il responsabile dell'interna audit, cioè di salvarlo in qualche maniera, non l'avete voluto capire. Ma invece così sono uscite cose che negli audit non andavano scritte. Io te lo dico a questo punto con molta franchezza: dal 26 maggio in poi, quell'ufficio lì, l'internal audit, dove appunto lavoravano Franzoso e Nocerino, viene smantellato. Chiuse virgolette. Queste sono dichiarazioni testuali rese in un incontro con Franzoso dall'ex presidente del collegio sindacale Carlo Alberto Belloni, che poi aggiunge, poiché si parlava del nuovo presidente in arrivo, Gibelli. Ma Gibelli, virgolette sempre, cari ascoltatori, virgolette, Gibelli, secondo te cosa fa? Si tiene questo audit? Si tiene questo organismo di vigilanza? Si tiene questa gente qua? Ma secondo te? Ma è ovvio che no, Gibelli la cambia, è il minimo che deve fare, dice Belloni. Ecco che a questo punto bisogna assumere come un sprazzo di sincerità che ci spiega come davvero funzionavano le cose in Ferrovie Nord a seguito di un'indagine che, ripeto, si incardina perché chi lavora in Trenodit dall'interno mostra di avere quindi gli anticorpi perché certe cose non avvengano, senza aspettare la procura. Molti spesso dicono i magistrati si attribuiscono le funzioni di controllore di tutto nelle aziende. No, qua siamo all'interno di una funzione di vigilanza interna che le svolge precisamente. Eppure la reazione di chi amministra è di questo tipo. Ma adesso tu sei fuori dall'azienda, perché? Sì, sono arrivato ad accettare una proposta che l'azienda mi ha fatto di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro. Io dopo il trasferimento, questa nuova funzione creata ad hoc per me, un nuovo ufficio chiamato regolamenti e normative del lavoro, che nulla c'entrava appunto con le mie precedenti attività di controllo, di vigilanza. Ma che aveva dei poteri poi interni? No, devo fornire supporto su materie legate al diritto del lavoro, devo leggere normative del lavoro e essere a disposizione del servizio di risorse umane. Allora però, già di fronte a questo trasferimento, ti faccio una domanda per far capire chi è in ascolto. Bisogna immaginare che la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori ovviamente non è addentro alle tutele del diritto del lavoro nei confronti dei lavoratori. A fronte, non ce ne sono di specifiche, ma questo lo diremo tra poco, però a fronte dei trasferimenti discriminatori nel diritto del lavoro ci sono delle tutele. Ecco, quel trasferimento lì non ti consentiva già di azionare una tutela nei confronti della società? Però la risposta me la dai tra un minuto, perché adesso andiamo al traffico. La versione di Oscar. Allora, eccoci qui, tornati in diretta a 16:47, prima con noi Andrea Franzoso, ex funzionario all'interno audit di Ferrovie Nord. Segnala, fa il suo mestiere con onestà, segnala a chi dovere all'interno della società spese per centinaia di migliaia di euro fuori da attività riconducibili al suo ruolo dell'ex presidente, poi dimissionario e indagato, il procedimento è in corso, e però adesso è fuori dalla società, ci ha spiegato, ho accettato di andarmene perché prima mi avevano tenuto nella funzione ma svuotato di poteri, e poi mi avevano trasferito a un ufficio con competenze sul diritto del lavoro che in realtà era nulla. E a quel punto non potevi già impugnarlo il trasferimento come discriminatorio? L'ho fatto, ho cercato di farlo. Ah. Ho fatto ricorso al giudice del lavoro di Milano lamentando quello che io ritengo fosse un trasferimento discriminatorio nei miei confronti. Purtroppo dopo sei mesi è arrivata una sentenza di rigetto che non è entrata nel merito della mia vicenda, ma il rigetto è stato fatto per motivi di diritto. E questo ci dà l'idea che il diritto forse è un po' indietro. E sì. Cioè, basato su che? Basato anzitutto sul fatto che non esiste una normativa che tutela il lavoratore whistleblower nel settore privato. Questo esiste soltanto per il dipendente pubblico al momento, grazie alla 190. E quindi non ho avuto tutela, il giudice ha ritenuto di non poter procedere, quindi avrei dovuto in quel caso o far ricorso o, in corte d'appello, oppure ripresentare lo stesso ricorso con altre motivazioni. E quindi naturalmente, siccome poi anche la finanza privata per pagarsi gli avvocati ha un limite, per così dire, a un certo punto dice vabbè, allora ne prendo atto, la faccio finita. Sì, non solo la finanza privata, perché ovviamente le spese per l'avvocato sono ingenti, io in questi mesi ho pagato fin troppi soldi, molti soldi dell'avvocato. E il problema è anche un altro, la lentezza della giustizia. Un ricorso in appello ha tempi medi superiori ai 2 anni. Ma non solo, cioè io cosa faccio nel frattempo? Rimango esatto. Con l'ufficio con le mani in mano a guardare il muro, a rodermi il fegato, cioè a un certo punto la cosa migliore, più sana, più per me è quella di voltare pagina e incominciare una nuova avventura. Allora, altrove. Qui ci sono diversi messaggi di chi ci testimonia che questa minor tutela nel privato è ben presente a chi nel privato vorrebbe segnalare. Qui c'è un Mario, per esempio, Mario 63, non do altre indicazioni su di te, che dice purtroppo lo sappiamo e infatti stiamo zitti nella mia società, perché è evidente, dopo aver parlato con avvocati, che ci dicono rischiate parecchio, visto che esattamente come ha fatto il giudice a cui era fatto ricorso Andrea Franzoso, questo trasferimento è già discriminatorio, dice beh, veramente nel privato le tutele non sono come nel pubblico. Ecco, poi ci sono anche altri sms di cui almeno uno però te lo devo leggere perché è personale, Andrea, perché ce lo manda Maria Grazia, non dico da dove ce lo manda, lo dico, ma sì, da Imperia, quanto da Maria Grazia Imperia ce ne sono parecchie, che dice: Giannino, la prego, chieda al suo ospite se è celibe, perché io cerco un uomo onesto, leale e coraggioso, così io te lo chiedo. Poi naturalmente Maria Grazia, beh, è un segno di apprezzamento al di là del, che ovviamente non ti vede per radio, però per quello che stai dicendo e per quello che hai fatto e per il prezzo che paghi, e questo mi fa particolarmente piacere. Allora, cari ascoltatori, io prima di inoltrarci con qualche considerazione generale vi invito a fare una cosa, perché oltre che denunciare le cose che non vanno, ci dobbiamo dare da fare come cittadini. Se lo ritenete, andate sul sito www.riparteilfuturo, tutto attaccato, riparteilfuturo.it, e vedrete che è citata nel sito, e proprio attualmente dopo l'intestazione del sito trovate subito una petizione da rivolgere al Parlamento per il rafforzamento delle tutele a chi, come Andrea Franzoso, e lo avete sentito, se fa il suo dovere civile, le tutele del nostro ordinamento non ce l'ha, o comunque non ce l'ha ancora Fortis sta nel privato. Troverete una petizione che chiede al Parlamento, in coerenza anche alle indicazioni di Transparency International Italia, di individuare per legge canali ben definiti di segnalazione, perché chi è testimone di illeciti o prassi comunque sospette deve sapere con estrema chiarezza quali sono i canali che gli è consentito a dire, le garanzie di riservatezza per chi ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto, l'istituzione di un fondo anche per la tutela dei segnalanti, perché questo è un pezzo di legalità dal basso che si costruisce, non solo dall'alto con le norme dello Stato che poi spesso vengono aggirate da chi è amministratore pubblico o privato, e con sanzioni verso i soggetti che a quel punto, come si vede, le attuano, come le discriminazioni, le ritorsioni, eccetera eccetera. E si tratta dei datori di lavoro pubblici e privati. Io vi do solo un altro dato: che un cambio di segnale produca comportamenti di legalità più diffusa è evidente per esempio da quello che ha scritto il Messaggero ieri nelle cronache di Roma. Pensate che il numero di segnalazioni che i dipendenti comunali a Roma hanno fatto su prassi illecite dei colleghi o dei dirigenti e così via, grazie all'introduzione di un servizio di segnalazione illeciti interni, è salito nei primi sei mesi di questo anno del 350% rispetto al 2015. Quindi è chiaro che le tutele servono all'incentivo, non è che sono tutti zitti, muti, collusi e si fanno i fatti loro. Da questo punto di vista, Andrea, è molto importante che quelli come te però facciano delle proprie vicende, come tu hai scelto di fare, un caso pubblico, appunto. Sì, perché la battaglia per avere anche in Italia delle tutele vere di dipendente whistleblower non è una battaglia soltanto giuridica, per avere una legge che ci tuteli realmente, ma è una battaglia culturale. Qui bisogna veramente cambiare il paradigma culturale, perché nei confronti di chi, come me, denuncia, segnalato malaffare e comportamenti legali, permane uno stigma negativo, siamo visti come spie, delatori e così via. E c'è molto lavoro da fare sicuramente, e il disegno di legge che è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 21 gennaio scorso e che ora è al Senato, so che il suo esame sarà calendarizzato a breve, è un piccolo passo avanti, certamente non sufficiente. Secondo me questo testo ha necessità di essere profondamente modificato per garantire tutele vere, come appunto citava poco fa, un fondo di garanzia. Io per esempio sono contrario con altre proposte che ho sentito in questo periodo, per esempio quello di prevedere premi a favore di chi segnala corruzione, malaffare o anche ogni altra. Questi altri, sono in alcuni, sì, altri ordinamenti di diritto di common law anglosassone, in alcuni paesi, nella pubblica amministrazione soprattutto, si danno premi. Sì. Cioè può diventare addirittura parte del salario di merito di risultato, ecco, per essere chiari. Sì, ecco, io sono contrario a questa cosa qui in Italia, perché questo secondo me potrebbe rafforzare lo stigma negativo. Lo stigma, cioè, negativo, lo fai, sì, per soldi. Lo fai per soldi. Spia venduta. Giuda, i 30 denari, vendi, eccetera. Quindi sono molto io d'accordo. Dico, sono nettamente contrario a questo, mentre sono a favore di meccanismi compensativi. Cioè non è giusto che chi segnala debba pagarsi l'avvocato, debba sostenere delle spese. Va bene non prendere soldi in più, ma perderci addirittura. Esattamente, non soldi in più, ma evitiamo... Esattamente. Oh, caro ascoltatore, che chiedi, ma come azienda privata? Giudice dice azienda privata è di due, controllata dalla regione e da Ferrovie dello Stato. Purtroppo le nostre norme funzionano così nel nostro paese. Ti ricordo che per aggirare il tetto di 240.000 euro, che in teoria è massimo per tutti i dipendenti pubblici RAI, basta che una società emetta delle obbligazioni e diventa, a quel punto capisci, come se fosse una società privata. Per me una società è privata se il controllo è dei privati, ma nel nostro ordinamento non funziona così. Grazie, bravo Andrea. Grazie. E noi possiamo solo dirti grazie per quello che hai fatto. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:20 domani mattina con me, Alessandro Mina. Attenti alle 2. Buon pomeriggio.